Nel mio giardino cresce una strana pianta che per star bene ha bisogno d'acqua, ma veramente tanta, e di un terreno fertile da coltivare tutto intorno e del sole per gran parte del giorno. Una pianta stupenda ma molto fragile, se la trascuri per le ammalarsi è molto facile, ma dopo tanto tempo e tante attenzioni produce un fiore che diventa un frutto chiamato amore. Sì, ma adesso non dite che sono il solito sognatore, eh? Ed il concetto può sembrare ovvio, ma non per forza la realtà è nascosta. Piuttosto è che se la tua attenzione è distolta, anche la cosa più chiara è invisibile all'occhio. Siamo una razza che per sopravvivere ha imparato a costruire e uccidere, e nella fuga vana dalla morte ha piegato la natura, creato dottrine distorte. Ora impariamo a vivere come le bestie, andando a caccia dormendo nelle foreste. O accettiamo il mondo in cui siamo, attiviamo una rivoluzione nelle nostre teste. Io ho venuto al mondo in sto posto stressato, che col tempo solo peggiorato, son passato dall'ognuno per sé e per tutti, al contadino che pianta i suoi semi e raccoglie i suoi frutti. E ha avuto stagioni aride, raccolti distrutti, ma anche cibo cresciuto col sudore che ti gusti. Non è né un viaggio né un sogno, né un sogno. Da quando muore io non sono mai solo, mai solo. Tanta forza che mi circonda, ah sì, faccio il mio viaggio accompagnato da un suono, da un suono. Io il frutto non lo mangio subito, lascio che faccia i semi e che il vento li porti via assieme alla profezia. Non sono io un profeta o un professore, io sono la pianta con i frutti dell'amore. I semi cadranno per caso in giardino da un altro e pian piano germoglieranno nei primi giorni di caldo. Qualcuno vedrà il germoglio dalle foglie tenere, lo vorrà tenere, lo concimerà con cenere e gli darà da bere. Altri lo strapperanno come un'erbaccia nata per caso, così come non sa capire la gente guardandole in faccia o che vedere le cose davanti al loro naso. Certe persone le piante le tengono sempre in vaso, così da sempre il seme dell'amore in certi posti cresce, in certi altri muore. Non è né un viaggio né un sogno, né un sogno. Da quando muore io non sono mai solo, mai solo. Tanta forza che mi circonda, ah sì, faccio il mio viaggio accompagnato da un suono, da un giorno ho lasciato un seme nel giardino della mia compagna. Ne è nata una piantina fragile, farla crescere non è stato facile, ma le ho tenuto sempre la terra bagnata. Ora la curo insegnandole ciò che le serve, perché il suo piccolo giardino resti sempre verde. Perché ogni pianta che compare in questo mondo indica il cielo con i rami, ma le radici nel profondo. Un giorno sarà un albero grande che avrà passato tempeste come qualsiasi creatura terrestre, e ricomincerà da capo, dall'inizio di questo testo. Ora ditemi, non c'è un disegno in tutto questo? Non è né un viaggio né un sogno, né un sogno. Da quando muore io non sono mai solo, mai solo. Tanta forza che mi circonda, faccio il mio viaggio accompagnato da un suono, da un suono. Non è né un viaggio né un sogno, né un sogno. Da quando muore io non sono mai solo, mai solo. Tanta forza che mi circonda, ah sì, faccio il mio viaggio accompagnato da un suono, da un suono.